capo e col mio lento passo avanzo nel tuo spazio contro il tuo dietro gelido che oltraggio abbatte in me. E tra la tua casa e su quei muri aleggia un'anima che striscia dove un tempo io, padrone unico, riconoscevi in me. Sciolto il nodo, chiuso il petto, chiusa quella porta al muro, mi voltai per tempo e mi salvai. Rosso e bianco è l'amore mio, l'alma vuole un fremito, le mie braccia stringono. Stermino ogni cosa che raggiunge un caro affetto mio, non lo perdono a te, non lo permetto mai. Vado e dimentico ogni cosa che riguarda questo mondo tuo di cenere, fra un poco ne uscirò e il sole accecherà. Già il mio primo passo incerto poggia su una terra nuova, calda l'aria abbraccerò. Mamma mia che avanti.